Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Autostrade, la linea dura di Conte dai Benetton, proposta imbarazzante, revoca più vicina, ma Renzi no a soluzioni populiste. Storico calo delle nascite, meno 4,5% secondo l'Istat nel 2019, il dato peggiore dall'Unità d'Italia. Mattarella e Paore insieme alla foiba di Basovizza, prima cerimonia con un capo di Stato dell'ex Jugoslavia. Calcio, stasera l'Inter contro il Torino per il secondo posto, in Champions via libera al City, il TAS annulla la squalifica. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24, politica in primo piano con il dossier autostrade alle ultime curve, ma anche con il nuovo DPCM sull'emergenza Covid in vigore da domani e la possibile estensione che fa discutere dello stato d'emergenza oltre il 31 luglio. Ne parleremo tra poco, come tra poco parleremo anche dello storico calo delle nascite registrato dall'Istat. Adesso, proprio per quanto riguarda il dossier autostrade, il Consiglio dei Ministri di domani prenderà una decisione probabilmente sulla revoca della concessione, dopo che oggi Conte è tornato a prendere posizione contro la famiglia Benetton, chiedendo una loro sostanziale uscita dal gruppo che controlla la rete autostradale. Alla vigilia della decisione in Consiglio dei Ministri, le parole di Conte irrompono nel dibattito sulla concessione, aperto dopo la lettera inviata da Autostrade e di fronte alla quale la maggioranza di governo si mostra spaccata. In due interviste il Premier di fatto boccia la proposta e allontana la possibilità di un accordo. Dice: i Benetton non hanno ancora capito che questo governo non accetterà di sacrificare il bene pubblico sull'altare dei loro interessi privati. Per Conte la condizione posta da Autostrade di alleggerire la norma del mille proroghe che annulla le penali in caso di inadempimento è irricevibile. Su questo punto e sull'uscita dei Benetton dalla società i 5 Stelle restano intransigenti. Da parte di vari esponenti del PD invece prevale il sì all'accordo. Idem da Italia Viva. Oggi Renzi afferma: basta slogan populisti, sì all'aumento di capitale con l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti. Per Giacomoni, Forza Italia, le sparate populiste distruggono il paese. No alla statalizzazione di Autostrade, dice Della Vedova. Europa, Fassina, Leo invece sostiene Conte e lo invita a non accettare compromessi al ribasso. In Liguria, intanto, in seguito ai cantieri per la messa in sicurezza delle gallerie, è iniziata un'altra settimana di code infinite. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E allora il tema della proroga dello stato d'emergenza, dicevamo, lo stato d'emergenza per la lotta al coronavirus che scade il 31 luglio, potrebbe essere prorogato al 31 ottobre, verranno invece prolungate fino al 31 di luglio tutte le restrizioni contenute nell'ultimo DPCM. Ieri in risalita i dati del contagio in Italia, 234 in un giorno. Prorogare lo stato d'emergenza per la lotta al coronavirus al 31 ottobre anziché al 31 dicembre è l'ipotesi su cui starebbe riflettendo il governo e che potrebbe essere all'esame del Consiglio dei Ministri dei prossimi giorni. Verranno intanto prolungate al 31 luglio le restrizioni contenute nell'ultimo DPCM, così le porte di discoteche, fiere e congressi restano ancora serrate a causa della pandemia. Vietati gli assembramenti e sarà obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi pubblici chiusi. Domani il ministro della Salute Roberto Speranza riferirà in Senato, ma per la proroga dello stato d'emergenza al 31 ottobre deve esserci una delibera ad hoc del Consiglio dei Ministri. Soltanto dopo il Premier Giuseppe Conte riferirà in Parlamento. L'opposizione chiede il voto e non un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che di fatto scavalca le Camere. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. In Spagna un tribunale ha deciso di non ratificare la decisione presa ieri dal governo catalano di imporre il lockdown in 8 comuni. Per il giudice del tribunale di Lleida la decisione della Generalitat è sproporzionata. Continua invece a crescere il numero dei contagi a livello globale. In Spagna, a causa di un focolaio incontrollato di coronavirus in Catalogna, un giudice del Tribunale di Lleida ha deciso di sospendere il lockdown dal governo regionale in 8 comuni, tra cui la stessa Lleida, perché ha ritenuto la misura sproporzionata. La protesta dei cittadini. Nadie viene a dar la cara. Hemos tenido en Cataluña, en Lleida, un día de fase 3. No se han hecho PCR suficientes, no se ha hecho seguimiento a los positivos. Intanto, contagi in crescita anche nella zona di Barcellona, ma la pandemia accelera in tutto il mondo. Dopo gli Stati Uniti, con oltre 3 milioni di casi e più di 135.000 decessi, e dove il record aspetta la Florida con 15.000 contagi in 24 ore, i paesi più colpiti sono Brasile e India. Il Messico invece ha superato l'Italia ed è ora il quarto paese al mondo per numero di decessi, oltre 35.000 a fronte di quasi 300.000 contagi totali. Preoccupa anche la Russia e teme un aumento di casi in Ungheria, mentre continuano le restrizioni in Australia, in particolare nello stato di Victoria, per un nuovo focolaio. Per questo è stato imposto un rigido lockdown a Melbourne. In Sudafrica, infine, ancora coprifuoco notturno e sospese le vendite di alcolici. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nuovo minimo storico di nascita dell'Unità d'Italia, lieve aumento dei decessi e più cancellazioni anagrafiche per italiani che vanno all'estero, è quanto evidenzia il bilancio demografico nazionale 2019 dell'Istat. La diminuzione in particolare delle nascite, meno 4,5%, è di oltre 19.000 unità. Nel 2019 sono infatti stati iscritti in anagrafe per la loro nascita solo 420.170 bambini, che è appunto il dato più basso all'Unità d'Italia. Ad oggi ne parleremo più avanti con il presidente dell'Istat, Blangiardi. Restano per ora ad Amantea i 24 migranti sbarcati sabato e trasferiti da Rocella Ionica. 13 di loro sono positivi al Covid. Il governo ha avviato la procedura d'urgenza per individuare una seconda nave quarantena per i migranti che stanno sbarcando in queste ore in Italia. Il governo è al lavoro. Dopo la nave quarantena Moby Zaza di Porto Empedocle, i ministeri Interno, Infrastrutture e Trasporti avvieranno una procedura d'urgenza per trovare una seconda nave quarantena destinata ad ospitare i migranti risultati positivi al Covid. Negli ultimi giorni a Lampedusa sono sbarcati circa 800 migranti che hanno mandato in tilt l'hotspot siciliano pensato per ospitarne meno di 100. Altri migranti sono sbarcati in Calabria e la presidente della regione, Iole Santelli, è sul piede di guerra, minaccia di vietare gli approdi nella regione. La governatrice di centrodestra chiede navi quarantena per ospitare i migranti risultati positivi al coronavirus. La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, intanto è impegnata in un vertice, videoconferenza coi commissari europei e i ministri dell'Interno di Germania, Francia, Spagna, Malta, Libia, Tunisia, Algeria e Marocco per fare il punto sulla situazione. L'obiettivo è rafforzare la collaborazione con i paesi di partenza dei flussi migratori più consistenti verso l'Italia. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. I presidenti Mattarella e Pahor hanno deposto una corona di fiori alla foiba di Basovizza, dove si stima che i partigiani jugoslavi abbiano gettato 2.000 italiani tra militari e civili. L'evento ha un grande valore storico. Pahor è infatti il primo presidente di uno dei paesi nati dalla disgregazione dell'ex Jugoslavia a commemorare le vittime italiane delle foibe. I due presidenti hanno osservato un minuto di silenzio tenendosi per mano. Andrzej Duda, presidente polacco uscente, ha vinto col 51,2% le elezioni in Polonia, superando al ballottaggio il suo sfidante, il sindaco di Varsavia, Ralaf Trzaskowski, fermo al 48,8%, e anche di questo parleremo nella seconda parte di Effetto Giorno. Ora di nuovo in Italia con la cronaca, a Milano, dove nelle ultime ore ci sono stati due gravi episodi di violenza. Aggressione a Milano dai mezzi pubblici o per strada sui Navigli come lo scorso fine settimana e in condizioni gravi dopo l'accoltellamento su un autobus di linea ieri sera a Milano. Un 23enne originario del Salvador era in compagnia di tre amici quando alla fermata di via Valvassori Peroni sono saliti sul mezzo una decina di sudamericani che lo hanno aggredito. Il giovane è stato trasportato all'ospedale San Raffaele in gravi condizioni con ferite multiple al torace e al collo. Non sarebbe in pericolo di vita, soccorso da altri passeggeri e dall'autista del mezzo ATM che quando si è accorto dell'aggressione ha immediatamente bloccato la marcia. La polizia ritiene si sia trattato di un'azione mirata della gang poi fuggita a piedi. E un venditore di rose di 55 anni nato in Bangladesh è stato spinto nel naviglio a Milano da due ragazzi forse italiani di circa 25 anni. Stava percorrendo la strada accanto al naviglio quando gli aggressori, senza dirgli nulla e senza motivo, l'hanno colpito, poi si sono dileguati. Alle 2:20 circa in via Gabriele D'Annunzio, vicino a un bar sulla Darsena, dove già la scorsa settimana fra le 3 di notte e le 5 del mattino un gruppo di giovani ha attaccato briga con diversi ragazzi tentando di buttarne uno in acqua. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo la perdita del figlio, un altro grave lutto colpisce il divo di Hollywood, John Travolta. È infatti morta la moglie Kelly Preston. Con il cuore pesante vi informo che la mia splendida moglie Kelly ha perso la lotta che ha combattuto per 2 anni contro il cancro al seno. Con questo messaggio sui suoi social, John Travolta annuncia la morte della moglie. L'attrice Kelly Preston aveva 57 anni. Preston e Travolta erano sposati dal 1991. Nel 2009 il loro primogenito Jet era morto a soli 16 anni in seguito a un attacco epilettico. Dopo aver perso all'ultimo momento il primo ruolo da protagonista in Laguna Blu, ruolo poi andato a Brooke Shields, Kelly Preston aveva cominciato a partecipare a commedie romantiche. Ho chiamato il capo per dire che saremmo state via qualche giorno. Ho dimenticato di dirti che siamo state licenziate. Oh no, tu odiavi quel lavoro. Era diventata nota al grande pubblico nel 1988 con la commedia I Gemelli, al fianco di Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito. I already buried a son. You want me to bury another, then you will bury me too. Kelly Preston è apparsa in decine di film. Nell'ultimo aveva proprio la parte della moglie di John, che recita nel ruolo del boss newyorkese Gotti, nell'omonimo non fortunatissimo film. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo allo sport, con il weekend sportivo conclusosi calcio e Formula 1, e stasera Inter-Torino, che vale il secondo posto per l'Inter. Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Alessio, ciao a tutti. Sì, questa partita vale per l'Inter il secondo posto, possibile aggancio alla Lazio. Ieri sera 2-2 tra Napoli e Milan, due squadre che si sono dimostrate comunque in salute e si sono divise in pratica la partita, con il Milan in rimonta finale. Oggi però la notizia è un'altra e ne parleremo, perché sembrava essere questa Champions l'ultimo ballo per il City di Guardiola, squalificato dall'UEFA per 2 anni per violazione del fair play finanziario. Ebbene, non sarà così, perché il TAS, il Tribunale Arbitrato dello Sport, si è mangiato questa sentenza dell'UEFA e i suoi principi. Il City è stato riammesso con tante scuse, e la sanzione pecuniaria da 30 a 10 milioni per non aver collaborato all'indagine addirittura ridotta in questi termini. Dunque il City resta in Europa quest'anno, ma ci sarà anche nei prossimi 2 anni a concorrere per la Champions League. Tra l'altro sarà un possibile avversario della Juventus in questa Champions. Grazie Carlo, grazie. Appuntamento sportivo col pomeriggio sportivo, naturalmente dopo le 14. Noi adesso ci fermiamo, facciamo il break e poi torniamo tra poco. 349-238-6666, come anticipato, sarà con noi il presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo per cercare di capire che cosa, qualcosa in più di che già non sapessimo sul calo delle nascite in Italia, nuovo record storico nella serie di dati che riguarda il 2019. A tra poco. Promo 24. L'atrofia muscolare spinale è una malattia genetica rara che comporta la progressiva atrofia dei muscoli volontari e il loro indebolimento. Si manifesta per lo più in età infantile, è la prima causa genetica di mortalità infantile, ma può colpire anche in età più adulta. Si trasmette per via ereditaria quando i genitori, portatori di malattia o di geni mutati, trasmettono entrambi la mutazione. Il riconoscimento dei sintomi, dai tremori e difficoltà nella deglutizione alle evidenti difficoltà motorie, gioca un ruolo fondamentale per l'efficacia della presa in carico. Prima è, meglio è. Rivolgiti al medico o allo specialista o visita il sito care.togetherinsma.it. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Autostrade contro Conte i Benetton, revoca più vicina, Renzi no a soluzioni populiste. Storico calo delle nascite nel 2019, secondo l'Istat il dato peggiore dall'unità, ne parliamo con il presidente dell'Istat Blangiardo. Mattarella e Paor insieme alla foiba di Basovizza, prima volta per un capo di Stato dell'ex Jugoslavia. Calcio, stasera l'Inter contro il Torino per il secondo posto. 13:17 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno. Adesso, prima di parlare dei dati Istat, il bilancio demografico che evidenzia un nuovo calo delle nascite, ne parleremo più avanti, come annunciato, apriamo una finestra sulle elezioni in Polonia, perché il presidente uscente Andrzej Duda del Partito Nazionalista Diritto e Giustizia ha vinto le elezioni con il 51,2%, superando al ballottaggio il suo sfidante, il sindaco di Varsavia, liberale europeista Ralaf Trzaskowski, che si è fermato al 48%. Dunque un ritratto del vincitore e le sfide che aspettano la Polonia in Europa. Gigi Donelli. Andrzej Duda salva Kaczyński ed il PiS. Il titolo questa mattina di un grande quotidiano polacco certifica da un lato la permanenza dell'avvocato 48enne di Cracovia alla presidenza e segnala però anche il campanello d'allarme per il partito Diritto e Giustizia, il PiS nell'acronimo polacco appunto, che domina la scena politica del paese ma che appare indebolito. Duda batte dunque Ralaf Trzaskowski, anch'egli 48enne, da due sindaco di Varsavia, progressista, candidato unitario della coalizione civica rossoverde che esprime gli europeisti dell'ex presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Come è già accaduto alla sua prima elezione nel 2015, Duda ha vinto sul filo di lana, 51 e pochissimo per cento, certificando la divisione netta che corre nel paese tra le città progressiste guidate da Varsavia, Danzica, Łódź e la provincia del fianco orientale, dove tradizione cattolica e diffidenza verso il grande vicino orientale segnano la scena politica. Se il presidente candidato nazionalista ha confermato di essere un lottatore da photo finish, lo score dell'avversario, un outsider, indica come la riorganizzazione del blocco civico abbia portato ad un risultato di tutto rispetto, con il quale anche Diritto e Giustizia dovrà fare i conti. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. E ora, come annunciato, ci occupiamo del bilancio demografico dell'Istat con il nuovo minimo storico di nascite dall'Unità d'Italia, ma c'è anche un lieve aumento dei decessi e più cancellazioni anagrafiche per gli italiani che vanno all'estero. Ne parliamo con il presidente dell'Istat, Giancarlo Blangiardo. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. E grazie per aver accettato il nostro invito, Blangiardo. Allora, che cosa ci dicono questi dati che già in qualche modo non sapessimo? In particolare, per esempio, per quanto riguarda il dato sulla diminuzione delle nascite, meno 4,5%, un calo di 19.000 unità, e voi dite nel 2019 sono stati iscritti in anagrafe 420.170 bambini, un calo che diciamo si trascina di anno in anno, però abbiamo sfondato un nuovo record negativo, così? Assolutamente, cioè siamo di fronte ad un'accelerazione del processo e stiamo parlando del 2019, non del 2020, quindi voglio dire, ancora in epoca pre-Covid noi stiamo vedendo che la natalità ha avuto ancora una forte e brusca discesa. Avete ricordato che abbiamo fatto un nuovo record al ribasso, il più basso di sempre, ma non dimentichiamo che sono 7 anni che andiamo avanti a fare ogni anno il record del più basso di sempre. Senta, ma è un come spiegare e inquadrare questo dato? Diciamo che si allinea con la quota di popolazione in età da figli, cioè ci sono meno coppie giovani e quindi si fanno meno figli, oppure le stesse coppie giovani che c'erano anche prima decidono di non fare figli e di fare meno figli di chi li ha precedute? Ma è l'insieme di più cause. Ora, chiaramente c'è un effetto strutturale, nel senso che scontiamo il fatto che nel passato via via il numero dei nati è diminuito, quindi oggi il numero dei potenziali genitori anno dopo anno diventa sempre meno, quindi c'è un effetto struttura, ma c'è anche un effetto scelta, o se vogliamo scelta e condizionamento. Spesso in queste cose c'è una situazione tale per cui il modello ideale che abbiamo ricordato nel recente rapporto è più o meno intorno ai 2 figli, di fatto diventa 1,3, quindi c'è una caduta derivante da una serie di difficoltà che si incontrano da tanti punti di vista. Ecco, questo è ahimè, è una situazione che ci portiamo avanti nel tempo. Qual è il contributo che dà invece la componente di origine straniera a questo bilancio demografico, anche per quanto riguarda il tema delle nascite, che come sappiamo è stato uno dei punti, diciamo, che ha contribuito a tenere un po' anche in equilibrio, no? Il sistema anagrafico italiano, il sistema sia, sì, appunto la composizione anagrafica della popolazione italiana. Allora, guardi, gli stranieri stanno in qualche modo perdendo anche loro vitalità. Per capirci, 62.000 nati stranieri, sono il dato del 2019, se andiamo al 2012 erano 80.000, nonostante da allora la popolazione sia aumentata di 1 milione, la popolazione straniera. Quindi evidentemente le difficoltà che si incontrano sono difficoltà generalizzate, quindi non è solo la questione degli italiani e quindi gli stranieri hanno una cultura, una tradizione, eccetera, ma anche loro si rendono conto del problema, delle difficoltà, e quindi conseguentemente si adattano a quello che è il modello del paese in cui vivono. Ecco, che esista questo problema lo segnala anche il fatto invece degli italiani che vanno all'estero, quindi lo andiamo a ritrovare nelle cancellazioni degli italiani iscritti all'anagrafe. Qual è il ritratto di questa componente di italiani? Sta cambiando, sta aumentando? In che modo? Allora, lì non dobbiamo dimenticare che c'è dentro anche una componente ex straniera, per capirci. Noi vediamo questi italiani che vanno all'estero, tra i quali ci sono degli stranieri che sono diventati italiani, perché il numero di acquisizioni di cittadinanza è cresciuto nel tempo, e poi naturalmente una volta divenuti italiani col passaporto italiano vanno all'estero e la statistica li segna come italiani. Indipendentemente da ciò però resta il fatto che la componente italiana, diciamo, all'origine, che va all'estero, è cresciuta negli ultimi tempi, ed è quel discorso della perdita di soggetti spesso con un'ottima formazione che noi lamentiamo da anni e che non riusciamo in qualche modo a contrastare. Blangiardo, naturalmente adesso si contano le reazioni politiche ancora una volta di chi, per esempio, dall'opposizione accusa il governo, ma a parti invertite potrà essere successa la stessa cosa anni fa, perché lei ci ha ricordato che sono 7 anni che va avanti questo calo. Però se potesse dare un suggerimento a chi in questo momento è in cabina di regia, per esempio per una misura che sia in qualche modo anche simbolo, strutturale, che possa dare un segnale invece a queste famiglie scoraggiate di poter fare figli? Beh, le azioni di intervento sarebbero tante, ci sono gli aspetti economici, ma non in termini del bonus una tantum, ci vorrebbe qualcosa che incida non solo sulle famiglie povere, ma sulle famiglie del ceto medio, perché sennò i numeri non si fanno. C'è tutto il discorso della compatibilità rispetto al lavoro, cioè norme che consentono di renderlo più conciliabile, c'è il discorso della cura, di una cura distribuita in maniera uniforme su tutto il paese, non gli asili soprattutto in certe aree e per nulla in altre. Cioè sono tanti gli elementi su cui intervenire, cioè si richiedono delle risorse. Allora noi possiamo cercare con le risorse disponibili di fare il massimo possibile, però voglio dire, la situazione è molto chiara, cioè la diagnosi è stata fatta da tempo, è la terapia che fatica a partire. Rimbocchiamoci le maniche e ripartiamo nella direzione giusta. Grazie Blangiardo. Buon lavoro. Buona giornata. Grazie dunque al Presidente dell'Istat, che ha tracciato ancora una volta il quadro non positivo della composizione della popolazione italiana, che naturalmente inevitabilmente invecchia a causa della mancanza di nuove nascite. Adesso invece ci vogliamo occupare di un tema che in qualche modo si sta aprendo un dibattito all'interno delle aziende italiane, sicuramente per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Parliamo di smart working, lo ha fatto la ministra Dadone, che ha detto si proseguirà con lo smart working, lavoro agile, al 50% fino al 31-12, fino alla fine di quest'anno, ma anche per l'anno prossimo si sta lavorando in modo che questa cosa diventi un pochino più strutturale di prima. Si dovrà naturalmente analizzare, capire in che modo passare da una cosa emergenziale come è stata quella di questi mesi a una misura ragionata, studiata, pensata, dove le aziende e i lavoratori possano trarne vantaggio. In ogni caso, fatto sta che sono tante anche per esempio le località turistiche che proprio in questa stagione si stanno attrezzando per creare un'offerta di questo tipo. È il caso di Skyway Montebianco. Ecco noi Maria Lagazzi, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'ufficio per l'opportunità. Buongiorno. Marketing Scavoi Montebianco, stiamo parlando di una zona che normalmente fa, non so se avete in mano diciamo i numeri, ma un quantitativo di presenze importanti e non solo in inverno ma anche in estate. In questo momento ragazzi, che tipo di offerta c'è per chi vuole lavorare? In che modo state coniugando il paesaggio, la montagna con le tecnologie e gli spazi per lavorare? Innanzitutto Skyway Montebianco è una funivia aperta 11 mesi l'anno, quindi possiamo definirci con un'apertura annuale. E d'estate sicuramente abbiamo dei numeri importanti, abbiamo riaperto il 13 giugno e stiamo seguendo tutti i protocolli per un'ascesa sicura al punto più alto d'Italia. E a seguito dell'emergenza sanitaria abbiamo pensato che Skyway poteva essere luogo dove i lavoratori possono fare smart working, proprio perché ormai il lavoro abbiamo capito che lo si può fare ovunque nel mondo, basta avere una connessione internet. Noi ce l'abbiamo, è forte, abbiamo anche la rete dati molto forte, quindi perché non proporci con questa opportunità? Abbiamo tre ristoranti bar nei quali sono presenti delle zone dedicate, ma soprattutto è importante che passare il messaggio, e potendo fare il lavoro da dove si vuole, perché non venirlo a fare davanti alle Alpi, davanti al Monte Bianco, per stimolare la creatività, per lavorare in un posto unico con la bellezza delle nostre montagne in Italia. Certo, per chi naturalmente se lo può permettere, per chi può sganciarsi davvero dalla città, per tutta una serie, diciamo, a tutta una serie di condizioni, ma poste queste condizioni, effettivamente la tentazione di andare a fare lavoro agile in località anche solo per qualche settimana come questa c'è. Che componente, che percentuale secondo voi di turisti si sta un po' sganciando dalla visione turistica classica e magari sono lì proprio per trascorrere un periodo di vacanza lavoro, chiamiamola così? Ma sicuramente una buona percentuale. Io al momento non posso proprio darvi un dato corretto, però sicuramente Courmayeur è la meta di molti lombardi, molti piemontesi, liguri che hanno la seconda casa e con un biglietto anche soltanto fino alla stazione intermedia di Pavillon a 2100 metri si può raggiungere uno di questi luoghi per lo smart working, e quindi perché non farlo per anche un'esperienza nuova durante questo periodo difficile? Avere una vista così può riportare. Pensa che idee creative ti possono venire in mente stando lì oltre 2000 metri d'altezza. Guardare per chi fa un lavoro creativo, per gli altri forse potrebbe essere il rischio, diciamo, un minimo di disincentivo a distrarsi. Ma in realtà qui è un tema, io la ringrazio Maria Lagazzi, grazie per essere stata con noi, è un tema davvero di cui parleremo nei prossimi mesi sicuramente, perché c'è un certo scetticismo da parte di chi dice che il lavoro agile rischia di trasformarsi in una sorta di liberi tutti, ma in realtà sappiamo benissimo che chi ha quella tendenza, diciamo così, a non fare un tubo o a imboscarsi o a nascondersi o a lavorare meno degli altri lo può fare benissimo anche negli uffici, questo è evidente. Quindi insomma vedremo poi se nei prossimi mesi questo dibattito decollerà e sarà anche per quanto riguarda effetto giorno un impegno che prendiamo da qui in avanti, andare a vedere nelle varie realtà aziendali che decisioni si stanno prendendo da questo punto di vista. 349-238-6666 per i vostri messaggi, per commentare le notizie di giornata. Torniamo tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento effetto giorno. Le notizie di oggi: autostrade, la linea dura di Conte, revoca più vicina, Renzi no a soluzioni populiste. Storico calo delle nascite, meno 4,5% nel 2019, secondo l'Istat il dato peggiore dall'Unità d'Italia. Mattarella e Paore insieme alla foiba di Basovizza, prima cerimonia con un capo di Stato dell'ex Jugoslavia. Effetto Covid sugli iscritti al test per medicina. Boom di domande nei primi 9 giorni, il doppio rispetto all'anno scorso. Calcio stasera, Inter contro il Torino. In Champions, via libera al City. Il TAS annulla la squalifica. Il punto di Alberto Orioli. Ancora una volta l'Istat con le sue fotografie impietose ci fa capire quanto il dibattito pubblico sia lontano dai problemi veri del paese e di uno Stato che, oltre a essere il secondo paese più vecchio del mondo, è anche quello con nascite in continuo calo. Ora siamo al record negativo dall'Unità d'Italia, con 19.000 nascite in meno nel 2019 rispetto all'anno prima. Siamo a 420.000 nascite ogni anno e un paese come il nostro, se scende sotto quota 400.000, decreta la sua autodistruzione in poco tempo. Altro che quota 100, servono massicce politiche per la famiglia e per la tutela delle madri lavoratrici. Altro che immigrazione come terrore pubblico, gli immigrati in un anno sono scesi dell'8,6% e sono diminuiti anche i neonati immigrati, che ormai sono un po' meno di 63.000, in calo del 3,8%. C'è un altro segnale uguale e opposto a quello dei migranti. Gli italiani che decidono di andare a vivere all'estero sono aumentati in un anno dell'8,6%. È la fuga del capitale umano. È come se qualcuno avesse fatto un buco nel cavo dei talenti. E ciò che è grave è che nessuno se ne preoccupa. E va bene, di questo ci siamo occupati già in precedenza anche con il presidente dell'Istat Blangiardo. Adesso invece una notizia che avete sentito anche nel sommario è l'aumento delle iscrizioni ai test di medicina che si faranno poi più in là. Sono aperte le iscrizioni proprio in questi giorni. Nei primi 9 giorni 33.097 iscritti contro i 16.400 dell'anno scorso. Ne parliamo con Eugenio Gaudio, rettore della Sapienza, vicepresidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Buongiorno. Buongiorno. Allora, effetto Covid, no? Si dirà senz'altro, ma intanto ve l'aspettavate un aumento di questo genere? E poi quando finiscono i termini per l'iscrizione? Ma diciamo che appunto bisogna attendere la deadline per l'iscrizione, perché nei primi giorni abbiamo avuto oltre 30.000 iscritti rispetto ai 16.000 del 2019, ma bisogna avere, alla fine saranno superati circa 60.000 dell'anno scorso. Sì, diciamo, si presentano per la prova di medicina. Sicuramente c'è una grande attenzione, questo dato anche di rapidità di risposta lo dimostra, e penso che anche l'importanza che il sistema sanitario nazionale e l'esempio dato dei medici e dai professionisti sanitari in questa difficile emergenza da pandemia abbia portato, diciamo, molti ragazzi a volersi confrontare con la possibilità di fare il medico. Quindi una cosa molto positiva, ha prevalso l'entusiasmo, la voglia di fare e di impegnarsi piuttosto che la paura che magari ci può essere di fronte a quello che un'epidemia così impegnativa ha portato all'evidenza di tutti. Senta, c'è però anche un dato negativo: le associazioni di studenti denunciano un aumento dei costi per questi test di medicina, che appunto sembra un po' andare in controtendenza con quello che diceva lei, come c'è più bisogno di medici, si spera che ci siano più iscritti, poi però i costi aumentano, è vero? Perché c'è un aumento? In realtà non mi pare che sia così, perché diciamo non è l'aumento dell'iscrizione, anzi, le iscrizioni all'università saranno gratuite fino a 20.000 euro di ISEE familiare, quindi l'iscrizione sarà addirittura azzerata. Prima era fino a 13.000 ed è stata portata a 20.000, e la curva fino ai 40.000 euro di ISEE familiare sarà molto abbassata nelle primi scalini, oltre dell'80%, quindi l'iscrizione addirittura sarà molto facilitata, soprattutto ovviamente per le famiglie meno abbienti. Ci si riferisce probabilmente alla quota di iscrizione ai test, che è molto bassa, sono 100 euro, e che è stata la media che la CRUI ha proposto fra chi ne faceva pagare 150 e chi ne faceva pagare 100, tenendo presente fra l'altro che questo copre semplicemente le spese di organizzazione, sì, anche per quelle università che generosamente hanno dato la disponibilità ad ospitare i test di ammissione a medicina, anche se non hanno la facoltà di medicina. Questa è una novità di quest'anno, per evitare gli assembramenti, per evitare movimenti e viaggi. Bene, questo prendiamolo come un aspetto positivo. Senta, Gaudio, lei è anche consigliere del ministro Manfredi, no, per la formazione in area sanitaria, quindi per quello che le sto per chiedere è anche parte in causa. Però insomma le voglio chiedere un giudizio. Il governo ha annunciato tanti stanziamenti, c'è un'attenzione naturalmente al sistema sanitario come non mai, 3,5 miliardi, però ricordiamoci che ci siamo arrivati con personale sanitario carente, carenza di posti letto, terapie intensive, posti letto bassi, con tassi tra i più bassi in Europa, squilibri territoriali. Io le chiedo, secondo lei queste cifre messe in campo adesso, ma anche restando al suo campo, che è quello della formazione, 4.200 borse di specializzazione in più, ha detto Speranza, che poi il vero collo di bottiglia è quello delle borse di specializzazione, possono bastare ad invertire la tendenza o c'è ancora da fare, siamo lontani? Ma diciamo che l'emergenza ha messo in evidenza dei limiti del sistema che noi in realtà denunciavamo da tempo. Noi da tempo chiedevamo borse di specializzazione in più che fossero adeguate al numero di medici da specializzare e alle richieste del sistema sanitario nazionale. In passato ci sono state, con governi di tutti i colori, però diciamo problematiche differenti che hanno avuto la meglio su queste richieste di formazione dei medici. Oggi si è visto che il sistema sanitario è uno dei baluardi del welfare sostenibile. Ma questi, questi segnali che arrivano sono, possiamo chiamarli inversione di tendenza, secondo lei, secondo o ancora troppo sì. timido? Secondo me sì, per un motivo semplice, perché il Paese si è reso conto dell'importanza, il decisore politico sta attento a quello che chiede il Paese. È chiaro che non basta un una tantum per recuperare l'imbuto formativo che si è creato negli anni, ci sarà bisogno di uno stanziamento straordinario, come c'è stato quest'anno, per almeno altri 3-4 anni. Ecco, quindi dopodiché diciamo non finisce, l'inversione può esserci stata, ma dovrà essere confermata, altrimenti si tratterà ancora una volta di un timido sommovimento. Io ringrazio Eugenio Gaudio, rettore della Sapienza, grazie per essere stato con noi, è tutto per la puntata di oggi con Valeria Bernardi regia, Jacopo De Franchi in assistenza in redazione, per quanto mi riguarda ci risentiamo domani, vi lascio ad hashtag autotrasporti, Andrea Ferro. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it